so dove c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no, che le disse mare, che le disse mare. E la luna bussò su due occhiali da sole, quello sguardo non si accorse di lei. Thank you.